combattiamo la battaglia del Signore, combattiamo col Vangelo e l'amore. Quando sarà finita, la corona porteremo. Combattiamo la battaglia del Signore, combattiamo col Vangelo e l'amore. Quando sarà finita, la corona porteremo. Metti l'armatura, non c'è tempo. C'è tempo a riposare, metti l'armatura, non c'è tempo per peccare. Combattiamo la battaglia del Signore, combattiamo col Vangelo e l'amore. Quando sarà finita la corona, metti l'armatura, non c'è tempo per dormire. Metti l'armatura, non c'è tempo a riposare. Metti l'armatura, non c'è tempo per peccare. C'è tempo per peccare, metti l'armatura, non c'è tempo per dormire, metti l'armatura, non c'è tempo a riposare, metti l'armatura, non c'è tempo. Combattiamo la battaglia del Signore, combattiamo col Vangelo e l'amore.